stazione venida se va succedendo la stazioncina qua a cambio. Attento Giuseppe se mi vai scucciando cambio. Domenica Claudio. Ma domenica. Qua, dimmi come sto andando io. E qua mica a manetta, i vatti sono. Faccio una cosa toccato qua. Come va? Cosa politica? Sì, 9 più 60 la radio è una schifettata 5 perfetta, nessun problema lui. Vabbè, c'è, non so, qualche ritocco da fare, non so. Dimmi tu. Aspetta. Sagai, la saluto gai. Andava, dai. Aspetta. Lasciamo un po'. Come sei arrivato, primo c'è? Bucca per me, bucca. Guarda, vera. C'è un po' tantino. Una partita? Non lo dico portantina, vuol dire che sotto di te no, non problema. Ok, va bene. Abbiamo certo lo sono tratto, saluto anche a voi. Mi faccio una carrellata al computer e poi riposino e ci sentiamo stasera, Luca. Già sarebbe trovarmi KK. Vabbè, là, tutto a posto, là. Sì, tutto. E ho aspettato una, poi sono salito subito. Appena sento via te, l'altra non ho salito subito. Beh, va tranquillo. Adesso ho mangio una cucina anch'io, una frutta, la mela, devo mangiare la luna, c'è un buca va. Vabbè, ma tu non è che è fuggita, sì, lo sta mangiando, e ci riada un po', no? Beh, sentiamo dopo magari, là. Dopo, verso le 5, credo di non uscire stasera, adesso vediamo. Non so, se il tempo rimane così, magari una passeggiatina me la faccio. Ma altrimenti mi lascio il computer acceso, ti vedo vicino a Roma, quindi al limite già ci sentiamo al computer. Ciao Antonio, Falchetto, e ciao a tutti quelli che ti hanno ascoltato. Buona domenica a tutti, guardati per me. Ciao Maria. KK, ciao Claudio, buona domenica anche a te, come a familiare, dai. Se prendi Luca. Sentiamo dopo, ciao, a dopo. Io certo, dove sei arrivato? Io sto per accompagnare benissimo adesso qualche. Guarda, va. Sto. Ci metteria vita mia, Già va bene, ci metteria. Va benissimo. Saluta per Pinocchetto, tanto che io non lo sento più. Scappa. Pinocchetto? Lucio? Tanti saluti da Claudio Smalviero, che non ti sente più. Ho fatto l'industriale di muro, già l'ho detto. Vabbè, già mancato. Pagava. Claudio ha chiuso adesso, momentaneo, vai. Ti super cordializza, vai. Ciao a tutti, guardati per me, buona domenica. Kappa, ciao, bravo. Alle prossime. Ah, ci siete, sì. Appa, veloce, sempre qua siamo. Ah, dove c'è? Stazione fissa tu, non il carro. Ah, negativo, stazione fissa, veloce. E da dove è il comune? All'ippodromo, dove corrono i cavallini. Ah, questi sono lì. Ciao, Rocci. Accompagnarti, Pinucci, fino a dove posso accompagnarti, dai. No, con questa attrezza non ci arriviamo. Ah, prova che mi accompagni. Però la casa. Quasi da sicuro, perché a Vulcano me lo fino alle gallerie. Kappa. su QTH? Era al camion. E io ero a casa. Ma tutti c'erano quanti di cazzo da fare. Eh beh, noi siamo piccoli, piccoli, piccoli siamo. Piccolo e nero. Piccoli, piccoli. Di Pinocchetto, lo sente a Pinocchetto? Sì, a voi dove lo sento, saluto anche a lui. Va bene Pinocchetto, a me sempre bene, mi senti? Va bene, l'importante è sentirsi, Pinocchetto. Accompagnate un bel pezzo, dai, poi se non ci sentiamo al limite sarà tutte le prossime. Vediamo, da 15 giorni qua, sono 4 fuori carbone, se facciamo anche 50 anni. A noi ci piace il rosso, il carbone, no? No, a Vulcano si è preso anche il carbone, quindi il vino ce l'aveva, perché qui anche ci sono le date lui. Ti andrà bene, vado, vai. No, sono scappato, devo andare a pagare la riga e tutto la bomba. No, io manco 15 giorni da casa. No, no, la pallona mi lega come i bombi fuori. Beh, bisogna tornare sulla cinquantina, se no guai. Non è 50, ma sono fratelli, mamma. Ci mancherebbe altro. Ci piace il Cina magari, ma non rompe, non c'è attaccare la Cina. Lo credo bene già lo credo bene. Ogni tanto bisogna staccare la spina. Pinucci, così è. Ogni tanto bisogna staccare, se no guai. Dove sei arrivato? Sto tronciando, sai, riesco a tirarti fuori ancora, vai. Cappa Pinucci, dai, che mi stai sparendo, ce la riesco a volte alle migliori, dai, buon rientro, buon tutto, buon fine settimana, buona domenica anche a te, dai, ciao ciao. Cappa, cappa. L'importante è non avere mai bisogno di trasfusioni. Palla se la riprende. Tu hai voluto già... Non scherzi, dai. Se la sei già attaccato, già arrivi 9:30. Come veloce. Va bene, vado a mangiare, ma non lo faccio. Ehi, andrà bene, Vincenzo, andrà bene, Carlo non ha problema, ci andrà bene, Mesa. piacere. Mezzugara, mezzugara, veloce, dottor Rosa, dai, due minuti di senso vaga passato, ma andrà bene su Battisti. Ha detto Viuccio, a mettere ancora? pulsante e mi intende del pio pio su Mattesi. Arrivi sul distributore di benzina. Attento, minuto. Ah, mi ascolti. Ehi, a bolla sulla pizza. Vediamo una valigia. Bravo, pio pio. Attento, velocetto! L'hai chiamato da Itteri, mira, l'hai chiamato da Itteri! Ehi, la ventella Giovanni, ya. E tu all'intendi, sì! Sì, io va! La ragazzina Giovanni, Leone! Ciao. Ciao. con quell'amico lì e ci sentiamo. E c'è rimasto qua, boh, sono andati 50. Quando c'era l'accordo poi sono tutti spariti. Tutti a nanna, bobo, tutti a nanna sono. Bobo. Cosa mi dai? Comunque è buona come antenna, sono contento e sono molto soddisfatto. Visto, hai, chiaro, andiamo. Gabba, Bobo, gabba di Rogero. Tu sei a casa così? Sono a casa con l'antenna della macchina attaccata sull'aro, uomo. 2 metri di palo, la vita via sta vendendo. Sentivo a lui fino a miseria, quindi l'antenna rende ricezione, sta risuonando bene. Stazionale c'è 1,5. E va benissimo, cioè va benissimo. Oddio, era meglio uno uno, ma rubo su vannuta. Ah, va, appena ritiro in casa un po' di soldi, mi compro l'antenna nuova, me la piazzo lì. Ho messo la mia lampa io, se non mi metto la ringo, la papirmo. Quanto costa una, quanto costa l'altra. Cappa, guarda che qua non stai scherzando, Bobo, sei 9,20, Sì, lo so che sono 9,20. Adesso vende l'antenna, prima non ne va nulla. Ha attaccato a quel piedistallo come se non ci fosse agganciato niente. Il piedistallo adesso stamattina l'ho pulito, la ruggine, ho pulito anche in terra, gli ho messo un po' di varichina nel coso, perché mi stava rovinando tutta la... Mi dispiace a me, io mi avevo il pavimento macchiato di ruggine. Allora ho preso, l'ho fatto con la varichina e adesso piano piano già esce. Ho messo un palo attaccato al muro e la uno non muovo più, se la piglia ancora. Mi sono piato le gaffe ieri lì dal centro storico, le gaffe larghe, e io ho portato una, non si muove manco molto il palo. Va bene, Bobo, lascia quella che vai più che bene. Guarda, e se te lo dico io te lo sto dicendo di cuore, Radio 5, Santiago 9,20, non ce n'è per nessuno, C'è qualcuno sotto avanti che ha detto qualcosa? Ho chiesto un breco. Ah, ciao Giuseppe, sentito. Ben entrato, guarda che ho trovato qualcosa a Giovannone, si chiama. Per quella gente che mi stavo dicendo tu, stasera voglio passare a casa, così viene e se lo porta via. Cioè, se lo comprami. Cappa di positivo, allora te lo salgo e glielo sistemi, vedi tu un po' e poi se gli piace se lo prende. No, io ho già detto che lo vuole il mio, ha detto già se lo prende, se lo prende in macchina, non ho capito. Penso che lo attacca la stasera, ma venimmo. A dove vuoi salire, già sono qua a casa, tanto non mi devo muovere stasera. Andà bene nera, ma se non sbaglio ho sentito anche l'amico Palchetto in modulazione. Cappa, salutoni Giuseppe, ben entrato, ben ascoltato, ben tutto, a te e QRA familiare. Cappa di positivo Palchetto, ricambiato e al centro, ben sentito e ben trovato anche te. Allora, ma ci sali stasera a Pomponio? Adesso vedo, sempre che non abbia qualche intoppo vediamo, se ce la faccio posso farci un salto anche fra una mezz'ora, così glielo lascio quella storia lì. Capo, perché se sali, se non ti do disturbo, se passi a prendermi così devo lasciare la cosa un po' buio. Cappa di positivo, non ci fa assolutamente problema l'amico Palchetto, tu è lì, sì. Andrà bene, va, ti ringrazio, Giuseppe, ti ringrazio, vai, se passi fammi chiamata e mi tengo pronto, vai. Cappa di positivo, l'amico di Intini ci sta ancora o è andato via? L'amico di Intini, stavo facendo un po' d'ascolto, non lo so, attento l'amico di Intini. Negativo, vuol dire che aspetto Giuseppe. Ah, era giusto per un controllo. Mi sono rifatto un PL stamattina, come da te qualche? Aspetta, una bomboletta sei qua, stai parlando vicino a me? Cappa, trucini ce ne sono qualche? Oh, negativo, l'amico Ligia, lo sai che se c'è qualcosa io te lo dico sempre. Liscio come l'olio, confermi Pompulio? È a posto, se 5 di radio amplificata, bella, corretto come si deve, è perfetta. Lo sai che quelle qua lì non ci sono ancora, sta cercando un amico mio lì su internet, ancora non l'hanno messo. Se devo comprare un paio, perché li ha sentiti quel tipo di microfono, è molto meglio del 1.300. Costa anche di meno. Quale? Quello che io stai dicendo, Pompo? Via, quello che tu sì, proprio quello. Va benino questo mi, nonostante tutto un po' mi aiuta. No, già va bene, funziona benissimo, non c'è nessun problema, è perfetto. K, e ricappa. E perché? Il tesinara dove? Come, Giuseppe? Il tesinara. Busca la mia guru un microfono del genere. Telecomunicazioni.com e su che andiamo. E me la cosa da. Una fesseria costa qualche. È la tua vostra. Ma guarda, mi pare che portato a casa il tutto dovresti essere meno di 40 euro. Tanto ne pago, dai, c'è poco. Guarda, fai che, te lo dico con tutta sincerità, forse è la spesa più bella che ho fatto qui, in mezzo a tutti gli ambaradammi e tutte le storie che ho preso. Pappa. Adesso vediamo, dai, bisogna fare il passo lungo quanto il piede, Giuseppe. Passo lungo quanto il piede, se no guai. Cappa di positivo. Perfettamente d'accordo con te, Pache. Meglio fare il passo quanto richiede la persona piuttosto che uscirci fuori. Ci sono cose che possono aspettare. Io devo fare alcuni cambiamenti qua, diciamo, no? Però aspetto, perché non adesso non si può, però pian pianino vediamo di sistemare le cose. Si conferma Giuseppe, si conferma. Niente, cosa volevo dire? Niente, se sali fammi chiamata Giuseppe, l'apparato è acceso, non c'è problema, dai. K di positivo, chi vuole entrare su 5 K? Attenzione su 5, c'è stato un tentativo di sovramodulazione dell'amico Falchetto. Chi vuole entrare adesso il canale libero, K. Penso che libero e non entri, va benissimo, vai, riprenditela con voi. Via, K. Senti, attimo, una specie di qualcuno sotto, ma non riusciva a passare. Poi sparito. E K, no, Falchetto l'ha schiacciato in pieno, Oh, che sono piccolino io, Giuseppe, già lo sai che sono piccolino. Io non sono piccolino, più piccolo di me, guarda, sto uscendo con 48 punti, più piccolo di questo, guarda, io sono sicuro che a Sassari apparecchio più piccolino come il mio non esiste. K si conferma, Giuseppe, si conferma. E cosa vogliamo fare, mannaggia la Maria? Caspita, quando ero piccolo ero troppo piccolo, adesso sono grande, sono troppo grande. Cosa ci vogliamo fare, Giuseppe? Cosa ci vogliamo fare, che va bene così, alla grande. K, c'è stato un brecco, avanti il brecco. Buonasera a tutti, quando la tappate. Ciao Fabietto, ben entrato, ben ascoltato. Avanti Giuseppe per Fabio. K di positivo, ben sentito Fabio, ben trovato su 5. Cordialità, avanti Pompo. Ciao Fabio, ben entrato. Poco fa ti ho chiamato, è fallito, lì a telefono. No, sono entrato un attimino. Cioè, acceso la malachino e ho visto il signore di Falchetto. Tutto qua, stavo dicendo a vedere cosa era successo. Però buonasera Giuseppe, buonasera Torello. Perché Fabio, cosa è successo Fabio? Dimmi che sono tutto orecchie, dimmi Fabio. No, non è andato la più alto, è su. No, che sono piccolino io, dai Fabio, cosa pretendi? Piccolo sono. Fa 10, Vabbè, dai, ci accontentiamo Fabio, cosa vuoi ti dica? Vieni a fare un controllino all'amico Tornaro, dai, vieni avanti Tornaro, vieni a fare un controllino, Fabietto, dai. K di positivo, vedi un pochino questo controllo per Giuseppe, controllo radio, K. Radio 5, segnale 6 con picchi di 7, non mi ricordo quanto arrivavo in prima, sì. K, Radio 5 e Santiago quanto, l'amico Fabietto, K. 6 a picchi di 7. K di positivo, anda bene, avanti con bonus. Io ci ho messo male, quindi sono un po' spazzato. Io mi ricordo la falchetta perché ci ho parlato ieri mattina della 7-9. Adesso se ne siamo 9-10, quindi capito, quindi, però non sono molto affidabili. Sì, anche per cambiare antenna, se avessi l'antenna dal proprio maio. Capito, Fabio, tu quando te la metti questa cavolo di antenna sulla falchetta? Domani? Ti fa bel tempo? Ma fa tempo domani? Ma per te potrò la macchina su tutto che mi ragno da domani. Sì, basta fare però. Allora fa molto passato bel tempo. Ma non è stato bel tempo, Antone, è stato del vento. Nel tempo relativo, poi ci vuole il vento. Il vento non c'è adesso, ho visto. È perfetto, là, è nuvoloso. Il vento non viene. Domani dovrebbe essere sole, se fa quasi saluta. Attenzione Pompolio. Via. Ma il vento dove sta? Ma l'amico Fabietto da dove sta modulando? Vicino a casa, a Caporazzi. E allora vento non ci mette, perché qui mi arriva molto basso come radio. Mi sta usando ancora di macchina, sta usando con l'inco, capito? Finché non si ritira il microfono. Ma il microfono quando te lo ritiri, Fabio, stasera. Scusate un attimo, intervengo io, faccio un attimo di bianco per mettere un po' di rosso, riprendo subito. Ma che? Antone, niente, io ho visto giovedì, era un apparato, ma non spero di aprirlo. Comunque giù c'è il fatto che l'antenna è in punta a 9 piani, ecco perché mi serve, non mi serve il vento. Spaventi siete, è una lega. Luglia. Giovanni, chiama la sociale, perché poi non lo so. Cosa? Giovanni, non ti ha chiamato? Sì, mi ha chiamato, deve portarmi in lineare dopo, cosa, quella a Giovanni stasera. Giuseppe, devo passare qui a portarmi in lineare della macchina, dico io. Ma mi stava dicendo che non sapeva dove la macchina, non sapeva qua. Sì, la macchina se l'ha presa, mi ha telefonato a me, e gli ha fatto prendere, quello c'è Giuseppe, uguale, il Midland Exchange, 150 euro su internet. Qua lo voglio 200. Infatti lo so anche io di prendere su una linea, no? Poi ho detto, sì, Antone, mi ha chiamato un altro numero, perché devo prendere la macchina, non so quale. Però quel barattino lì è quello che sta usando Giuseppe adesso, come sta uscendo quel microfono, quello che c'è, sta uscendo bene. Sì, appunto, ma la conosco l'apparato, ce l'aveva guardato, l'ho fatto, lo conosco, poi io ho fatto, ma andiamo bene, che voglia. Ehi, ho ripreso, ehi, tu sei bisnese? C'è proprio Giuseppe. Attenzione Bacco, se mi ascolti. Oh, ebbè, Gianni, doppio room, buonasera, ben entrato. Ciao, Farchito. Come si dice anche a te e a tutti i nostri amici, dai. Una buona sera, cordiale a tutti. Ciao, c'è Gianni. Lisi. Sento un basso a... come si chiama? Non sento un bel basso, ma quello di carburante, non mi ricordo adesso come si chiama. Fabio, io lo sento, Santiago 2 e mezzo. Sì, infatti che avevi. E con l'antenna davanti è attaccata al terrazzino, così provvisoria, con un pezzettino di paletto piccolino. Ah, se va l'antenna sopra la capitura non andrà. Ma va, vieni, adesso se tutto va bene si decide a salire sopra il tetto, a cambiare il capo, se hai fatto il capo da cambiare. Via. Quando controllo? 9:15. La radio è buona. La radio è buona. Appa. Andata bene bene, dai, fate girare, fate girare. Ma che è che sta arrivando più forte anche di Antonello, no? E vabbè, Antonello c'è un attendino, dai, c'è un attendino incapibile, dai. Guarda che se mi fate arrabbiare, vado fuori. Piatto la mantola con i radiali così come sono e fino al palo, ma non ci laggiù dal tetto. Ma fallo Barò, fallo! Ma cosa con tua sfoce? Lo metto dove c'è il come si chiama a me? Cioè perché in mano mi vogliono gli affiliati e mi vuole mettere il cavale in piedi in una sedia per infilare l'antenna dentro, al palo. Quando poi torna a mamma per questa cosa mi picchiacca. Ma te l'ho detto, non mi sembra una sensa, no. Ti ho tolto colpi di stallo lì. Se lo vuoi utilizzare tu colpi di stallo in ferro, te lo metti nel terrazzino, li metti con la stampa del terrazzo. E così non c'è bisogno di appoggiare quando c'è l'antenna, la metti dentro la cosa, nel terrazzino, all'interno che non c'è già un sicurica. Riprendi già. Chissà di c'è di coppia di stalla, la buona messa, mi sei attaccata con le gaffe tutto quanto. Come deve essere messa, una volta per tutte non vi pensi più. E io l'ho bucato, già c'era già il muro bucato, perché c'erano diciamo dei florattini. Ho piazzato la gaffa e parlo attaccata al muro. Non si muove mai come l'altro, ci sono 2 metri di palo e sopra cosa ci ho messo a tirare la macchina. Ho visto già, è perfetta. E sta vendendo. Ma già adesso già va bene, Santiago 7 arriva. Si è ritornato più o meno come eri prima. Perché prima quando arrivavo 9. No, ma prima quando? Prima arrivavi anche più di 9. Ma ultimamente non mi sei piaciuto con queste antenne. Devi prenderti un'antenna e piazzartela e boh, e non mi pensi più. Ma dopo che fai? Vabbè, adesso vediamo, dopo copriamo l'antenna quando viene fatto tutto qui, copriamo l'antenna, vediamo se c'è differenza da quella alla macchina a quella. Capito? Mi stavo dicendo però strano, poco fa con quel microfono, si dice. Confermo, Gianni, guarda il microfono che stai. Io? Sto. Che adesso sta facendo? No, adesso è pulito. Probabilmente non avevo schiacciato bene. Padre Rogero. Gianni, lo sai che ho accompagnato un amico. Dopo Plague, come si chiama il fornitore? Meserios. Mi sentiva bello, forte, chiasso. E tu vai? Vai, ok. Vedi, già c'è la differenza, se poi l'alzi un po' di più, vai. Infatti, almeno un cinquantino la sollevo, un cinquantino, un metro la voglio sollevare, dai. Poi li metto 3 tiranti, siamo a posto, dai. Che tono è adesso? Adesso 2 metri e più l'antenna. 5 metri, cosa un tantino, 5-6 metri di altezza, ti rendo un po' di più. Cavolo, lì devo mettere un palo serio però, a sollevarla con l'altezza devo mettere un palo serio. Qui a 5 metri c'ho. E c'è il palo che c'è di quelli telescopici, solo che l'ho preso da 8 metri, mi ha tirato su solo 5, c'è un rinforzo all'interno, e poi come ultimo palo ho messo tubo d'acqua. Ma questo è 3, cioè sono 2, 4, 5 metri dovrebbe essere il palo, dai, più o meno. Se 5 metri, interessante che tu li metti in bilancia, perché sono quelli che lavorano. Infatti, capa capa, adesso vediamo, dai, come si mette il tempo, mi gira, la sollevo un pochino, e non tanto, tanto già. Chi mi vuole ascoltare qua nella zona di Sierra Sierra e compagni vicino, già mi sentono, dai. Apaga. Va bene, ma Giuseppe, è sparito è Giuseppe? Dopo? Dimmi, dimmi. Ah, è Giuseppe, che fine ha fatto? Boh, non lo so. Giuseppe, che ti va il messaggio, mi? Giuseppe, non esiste. In punta il campanile. In punta il campanile che c'è. Ciao Natali, ben entrato, ben tutto, dai. E lottando. Oh, yeah. In punta il campanile. Mi canta la colloca. Se non mi lo viene a dare, tu sogno di neoga. Carissimo. Natali. Natali. Porta quella bottiglietta che mi è arrivato fresco fresco, E tu non hai bottigliette lì? Nulla, non ho nulla. Aspirina. Come la porti, te la riempio di quella cosa che già lo sai. È carregata. La benemera. E tanto da lì, che ci racconti di bello, facci sognare. Allora, compagnia di Gianni, sono vai, avanti doppio rupe di saluti. Ciao Gian. Ciao Natali. Scusate, mi stavo cambiando. Oh, yeah. Buonasera Natali, c'è anche Alessio e Coso, c'è Alessio e Fabio. Io ho appena acceso, quindi non ero al corrente. Fabio, buonasera, ben entrato Natalino. Grazie a te. E a ciao Taliba, ben trovata con boccio del vino. Già te le trovo bene anche a te, non ti preoccupare. Bevi questa buchetta, se no salto mezzo non avretta. Anche lui, ma non bu. Cappa, cappa, così bisogna fare. Giuseppe, è sparito? È sparito sì. Abbio, non c'è più religione. Ma poi ti chiama te, non mi senti già, l'ho chiamato, ma non è che sia gli è venuta la piocca allora. Ah, sto scherzando. No, magari sta preparando, dai, se deve salire dall'amico Pomponi, dai. Va bene, bene, dai, riprendete, fate girare Fabio. Fattore Asco, è giovane Grassale. No, non lo so, mi ha detto che stasera veniva, stasera domani mi ha detto, il tuo asico da Ciccio. Non so cosa è stata la verità. Capa, al limite del pittare ti faccio una capata. Io sono qua. Non ci sono problemi. Comunque, vento, non c'è niente, sta migliorando la giornata. Un po' fredda, ma già sta migliorando. Mi sa che ti conviene andare da quello, ti farà le chiavi. E la mattina alle 9 saliamo su e cadiamo il capo. La scala, dove vai? No, scala non ne ho io. Che scala ci vuole? Scala 4 metri, come minimo. No, mi mettiamo che sono 4. No, bravo, che non qui. Avanti, la stai. E cara gara. Adesso stiamo sbagliando situazione qua. E per forza, perché sei innamorato. Bisanca. Sapete che devo provare una situazione. Appa, appa. Riprendete chi c'è, fate girare, Gianni doppio ru. Ma guardate questo dolore alle mascelle. Ma dolore forte. Ho masticato troppo oggi. Dipende, cosa hai mangiato già? Ho mangiato patatine, carne arrosto, zappa sta asciutta, è un arancio buono. Allora ti dico subito cosa è, le patatine. Vero. Positivo, hai masticato troppo. Ah no, ma le patatine sono di quelle arrosto, mi fate arrosto con lo rosmarino. Appunto, bisogna masticare sia le patatine che lo rosmarino. E poi con quell'affare per arrosti, quelle spezie per arrosti che si mettono sopra, fa un bel buco. Kappa, ci credo, non farmi venire la fame, se no me ne faccio io due patatine. Andiamo, prendiamo salsiccione dall'io 1.45 e metto la grandia subito. Chi è? Bianco un attimo da parte mia, mi squilla? Un attimo, di pazienza, scusate, ma... No. Sì, tappeti negativi, sì, ero dei rubinetti. Parere di Natalino, come ti sento, ma è Natalino. Sembra un finocchio, sembra questo Luigi. È positivo, è una radio vecchia, vecchia, vecchissima, a 2 viti funziona. E niente, la stavo pulendo e controllandola, dai. E volevo vedere come usciva, tutto qua. Ma chi è un vento? Non ce ne sono, ma lui, tutto a 2 viti sono. E sta funzionando, questa dentro. Come si chiama, dai? Dentro. Non ho compreso. Dare, dai. Vabbè, guarda se me ne procurano un vento, 2:20 non mi piace. A un vento, a 2:20 capito? Non alle 2:20, 2:20. Io ho cercato una macchina un vento. Ah, da. Però è 22 canale questa cosa. Se abbasso il volume c'è la radio, però c'è una radio. Ma c'è l'orologio, le 3:09 minuti sono. Si sente una radio, c'è una radio, senti tu la radio, si abbassi tutto il volume. Sei sicuro che non c'erano quelli 3 canali? No, poi c'è, dove c'è quelli canali c'è il PA, c'è un'altra cosa pure. Questo ci va bene, dai, solo viene messo a posto. Capito? Va bene, una puntina di CRC, tranquillo che non guasta. Io ho messo a posto un microfono, devo andare, ma che neanche con il prodotto, quello per i contatti. Spuntatina di CRC, ah, lui aveva i primi bloccati della moto, cioè, prendiamo la mia moto, no? Non trovo indietro, l'avevo proprio messi male. Ho spuntato dopo i CRC, guarda, sono un burro adesso. Positivo, se senti come ascolto a voi questa cosa, perché c'è la colonnina davanti lì grande, no? È una radio grande, mi, pesante, è verde, verde oscuro, questa radio. C'ha tanti attacchi, tante cosette, tante minchiate, non so neanche cosa siano. E niente, ascolto benissimo, c'è una cosa che ho dato parlante che c'è davanti, perfetto, sembra proprio bene, bene, bene, bene. Attento Gigino Vulcano, buonasera. Scappa, lui comunque ci riesce, fa miracoli, dai. Ma vedete, ma sempre aiutato, molto, molto, tante cose. Non è la verità. Ma adesso appena c'ho 2 soldi in tasca me lo compro. Me lo compro perché lo utilizzo come l'acqua. L'ultimo, ultimo. Per problemi di svizzamento. Vai, fa che? Mi aspetto 10 minuti, arrivo subito. Campo, campo, campo. Muci mi chiama. Cappa, ciao Gigino Vulcano, ben sentito, Oh, ciao Falchi, ben ascoltato e ben sentuto, dice Daniele Primola, pure a Tia. Cappa, come ti arrivano le tue coordinate, Gigino? Sì, già mi arrivi, io ho questa radio, ho questo Zodiac B5000024, che anche se te lo dico non sai che cos'è, che non lo so neanche io che lo sto operando, però è di un amico, me l'ha dato. Non lo so, non vuole venderlo, però vuole fare il cambio con qualche altra cosa. Però è una cosa da collezione ed è bellissima, è bella perché è nuova. Ci avrà 40 anni, 50 anni questa radio, però è nuova. Riceve l'email, facciamo subito il cambio. E cos'è, Pompu? Cazzo, bene, non ho fatto nulla, l'ho solo pulita io e basta, un po' c'è del coso. È un Zodiac B5000024, capito? Quanto cambia? Lo sai, quel 23 canali mi ha fatto fare il volo da 5-6 o 4 mesi fa di 23 canali, figurati tu. Ma come lo tengo io 23 canali? Non mi senta proprio niente. Io ho 6 canali qua, se lo vuoi te lo regalo, te lo porti via, un po'. Mi sono mai piaciuti a me i panacchini, quelli vecchi, non l'avevo tenuta. Non te la chiesa in chi te ne cavo io se tu quelli su più in cambio ancora a me. Non sta cari assai, no? Ti dai a me brienda, va? Fatti via lui! Se lo presenti, quanti sono vicendi lui? Bene, cazzo, c'è una recensione formidabile, un ascolto bellissimo questa radio. Lo so, partiamo più su 5, torna chissà dove torna. Non capito, niente, boh, poi c'è questa leva che c'è sopra, non so che cazzo serva. Molta, che cazzo è scritto, boh. Vai, pompo, ti arriva fritta Luigi, va, scende all'ottava, vai. Oh, io c'ho bisogno di arriva fritta. Non mi sono mai piaciuti a me perché sei canali, Luigi, lui. A me se me lo avessero regalato, i più ce lo potevo faccio mezzo subito, perché non mi interessano quegli apparecchi. Non sono amante degli apparecchi antichi. Allora, vieni, vabbè, il tributo che c'ho, nel 2009, poi tutti gli apparecchi, gli altri apparecchi li ho tutti buttati. Perché non me ne faccio niente, sono una cosa in più. Io ne ho avuto questi tre canali qua a casa, li ho anche provati, no, non mi piacciono. Non sono più amante di quelle cose di lui. Se tu sei amante del discorso, ma io, vieni. C'ho anche poi i canali, anche tu che ne tu ho regalato, però non ne fai la valuta, non li ho venduti. Allora, la roba grande, gli apparecchi grandi, tipo voi, a me l'FT250 me ne va bene, perché è un apparecchio antico, e va 220 e c'è 100 watt di uscita, metametrico. Poi l'FT7B, sopra il campo di quelli grandi, quelli sono apparecchi, non i 23 canali, non si usano più. A meno che non sei un amante delle cose antiche, allora sì. Ma non c'è nessun valore, capito? O lui, tutto lì. È positivo, positivo. Ascolta a me, poi questi pomelli, qua c'è scritto Bruce Parre. Là c'è scritto SVF Calibre Ringhi. Poi non consegnale Unterferchen Pfaffanquenque. SVF KL. Lui, ma in inglese se non riesci in parenti? Leggendi dopo da cazzo, perché ti dice pomella, anche non siete in Italia. Non lo scrivo in inglese, è un casino. Bene, bene. Vabbè, dunque già si trova davanti, lui. Vieni da Walter, vai da Walter, lo porti, ci usa la triangolare, ti fai lo scambio. Ah, è mio amico, me l'ha portato Pinuccetto, ho capito. Niente, lo sono attaccato, ho provato e funziona. Funziona e niente, là. Poi mi ha dato anche un altro, ho provato anche un altro e cos'è quello lì? Sì. E chi è? Parchetto. Tanti saluti a Pinuccetto, Al Moro, già siamo visti stamattina. Gamba, a me mi ha salutato addirittura Meserio, ti ha mandato i salutini. Che? Ma te? Da Erula! Sì! Ma in una mano! Che ti fa chiamata, capa! Da Erula, sì! Ma tanto, e cosa ci fai a Erula? A Erula, e mi senti lì a Erula? Da ti sento già, patato! Patato, già ti tengo, è forse chiaro qua, dai, tu non prendi per il sedere a nessuno, che cazzo sia a Iru, ragazzo, che ti ascolto forte qua. Questa antenna bisogna che la venire a un furgone, ho 50 cm d'antenna, una frusta nera, e metterla nel terrazzino da te, bisogna toglierla. Oh, Volca, in effetti Santiago Zero, la radio un po' bassino, ma lo sento, a patatone. Un baracchino di 4 ore da pochi fatti, non è che c'è un baracchino, capito? Va se può sentire, capita, ma tanto là. Che ti sento patatone, ti sento patatone. E a me, a me senti, cambio. Poverito. Patato! Ciao Mario, ben entrato, ben ascoltato. Patatone, Erula dice che era, Erula! Ma a me allora patatone non mi sente. Sento Falchetto! Tu sei? Dove sei? Cappa, Giuseppe ti faceva chiamata da mezz'ora, Falchetto, ti faceva chiamata senza risposta, Cappa. Dove sei arrivato, Giuseppe? Sono qui in Via l'Italia, Falchetto. Ma sta venendo le mie coordinate? K di positivo, poi di a Patatone, che ti ha detto Giuseppe che da Euro là può modulare con un dirigibile, K. E pure cosa ne so qui? K, ma già lo so io, qualche, dai. Ah, bene, ma stai salendo, Giuseppe? K di positivo, tieniti pronto che come ti faccio l'ultima chiamata scendi. Va bene, va bene. Pianto a Patatone gliel'ha fatto il vulcano, capisci? Nel furgone a Patatone l'impianto gliel'ha fatto il vulcano. Salute. Ciao Mario, ben sentito, K. Cigirella siete, bubu. Avanti vulcano, se mi ascolti è mia! Piccolino, piccolino, tutto accappottato! Ah, parruggiolo che ti ascolto a te, Mario, non ci stanno problemi! Appa di positivo, anda bene meda! Beh, mutismo e rassegnazione! Mario! Fabi! Ora! Siamo qua! Forte chiasso! Pacchetto! Chiasso! Io piccolino, piccolino perché sono tutto accappottato! Scappa! Dimmi Giuseppe! Attento Pacchetto, Giuseppe te fa chiamata, K! Palza fuori, che tra due secondi sono lì! K, sto per scendere! Salutone tutta la ruota, Mario! A dopo! Non vedere l'acqua di Lourdes, se no fa fare un altro figlio alla moglie. Papa, salutoni a dopo. Papa, sto scendendo. Papa, io sono qui dietro la curva. Arrivo, scendo un attimo, balzo solo lì. Vedo l'antenna del falchetto, ciò. Vedo l'antenna del falchetto, è bella alta, né? Attenta a non staccare le piume Giuseppe a quel banchetto, se no cade dal nido. Cappa, sono proprio sotto casa sua, è veramente una bella antenna, eh. Attenzione, break per un controllo. Giuseppe! Sì, avanti. Non è che mi fa un controllo. Appena esco da questa foggia di palazzi, un controllo te la faccio alla grande. Negativo, io mi sto passando. Avete capito, operatore Carlo, Ma che, c'è qualcuno? Cos'è? Sì, avanti, che? Guarda un po' invece, date un controllino a me, se sta uscendo questa radio. Sì, con la radio sta uscendo, Santiago non te lo può suonare perché non ho lo strumento e diciamo che il mio è un po' così come controllo perché ho 18 palazzi qui intorno a me, però ti sento abbastanza bene Gigi. È positivo, c'è un microfono, guarda, gira questa rotella e aumenta, la chiudi a parte. No, sta lui, 9:10 sta arrivando qua. Sta microfono questa rotella, guarda, così la sto girando, Natali, non metta tutto al massimo, così la sto. Aspetta, sto freddo, cosa fa? Aumentava il volume del microfono, lascia al massimo. Servi chi è? Ah, ho capito. Com'è questa, cos'è questo, un super master mix? Come sta uscendo? Ebbene. Radio mi interessa, non segnare la radio. 9:05, va. Positivo, positivo. C'è 40 canali, però ne altro dove il cazzo siano. E magari c'è una doppia quartiera, capito la cosa a fare lì, perché è colazzato. Ascolta, questo un po' meno che dice fine, cosa vuol dire quello lì che rotta? È per la ricezione. Capito, la sintonia fine è quella, Parla anzi, parla a vedere. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. se non giro a destra. E io la cintura fine è quella. E capo, non metto al centro, oppure se no un'altra cosa. E locale, locale, giusto? E l'attenuatore per sentire i segnali locali solo, se lo togli quello ti fa sentire i segnali lontani pure. C'è anche le bande laterali, questo ho mandato sempre per un centro a provare qua. C'è anche le bande laterali. E c'è un buono allora? No, non so in che canale vado quando sposto là, non lo so. Ci sono Canel H, cosa vuol dire? No, le O, ah, forse lì c'erano i vatti. Ficcato. Sempre quella mi sono chiusa nel vatti in chiusi. Non ce l'ho di fronte per vedere. È positivo, è positivo, però sono proprio dei corretti, ma la tribolia. Sì, io la assorbi, io pure vado a 221 in occhi. No, questo è normale, questo è tipo, quanto è un, no, l'hai visto quel colpo che ho io, quello nero, e più o meno quanto è quello lì, grande? Ho capito. Un super parte che dici, si parte arch, se fosse, ragazzi, tutte queste cose dove dici io. Sarà un Per Simpson. Forse di sì. Super. Allora, Palermo, Ancona, Nettuno, Torino, Hotel, Empoli e Roma. Sì, sarà uno di quelli che ho detto io. Io non l'ho visto per capito. Sarà un Per Simpson. Non lo so, poi c'è scritto. Allora, Super Pasker di Bearch Simperson. Division. Corazon. E c'è qua. E che baracchino di. Vabbè, ma come potevano tutti e due? Sono le 3:28 qua, sta girando anche l'orologio. Di quelli antichi ce l'avevano, c'avevo un pony io mi sembra, e un pony mi sembra che fosse, e c'era l'orologio anche quello. Ma quello è bello, che quell'altro suo è bello, cazzo c'è una bella cosa, cazzo, l'altro, quello di prima, questa è un'altra cosa, però quello di prima è bello, cazzo. Sì, sono bellissimi quelli antichi. Questo con questo qua ti ascolto meglio. Sì, dipende da parecchio, capito. L'uso non mi viene in via. E Giuseppe dove stava andando con Falchetto? Lui. Non lo so, sono vedendo una cosa, no, che mi dici via le cose, poi va una cosa ancora, no, arriva 22 canali che c'è ancora, 22 canali, però bisogna vedere quante cose c'è ancora. Sì, perché magari c'è la doppia quartiera, c'è un sacco di canali e tu manco lo sai, capito, là? Perché certi apparecchi del genere li facevano il doppio dei canali. Bello, mi piace come vi ascolta a voi. È bello, sarà bello sì. Vabbè, dai, lui io ti saluto che me ne vado a fare un pisolino, più tardi devo uscire. Ci sentiamo alle prossime, là. Però solo per farli scaldare, perché a fare chi non lo mi pretendi nulla. È positivo, dai, io rimango qua ancora, dai. Ma non sto uscendo, sì. Oh, la voglia di si scende. Ciao Liz. Ah? Ciao Liz. Ok, ti passa a fare. sento te la fa più bella di quella di Messi. Ho detto grazie a Tonello. Aspetta a me. Sotto, avanti. Sì. Salvatore. Avanti Salvatore. Sparito. Non è già da esce. Vabbè, aspetta un attimino, è arrivato Fraschetto e Giuseppe. Ma che se cosa hai detto, non ho capito l'ultimo passaggio cosa hai detto, così facciamo, non ho capito. Non correre San Paco, se ti compro un giettino, c'è quello con la macchina verde qua a non lo capisco, stai dicendo se vuole tu vuoi fare il cambio tu, non ho capito cosa stai dicendo. Allora ha detto che a San Cagliari c'è uno che sarà dei cestini, non ho così ho capito, cestino, per fare il concorrenza al bambino. Ah, cavolo, che roba, non ho proprio dei cestini, ma potrò vedere se soffitti, ne capito. Si metteva, adesso sta mettendo vicino al mercato dell'ottofrutticolo, mi pare l'ho visto lì. Ho capito io, là. Avanti, patatone, ma sempre viaggi per cosa stai facendo? Per brinco, me. Calibreri, da Gero Calibro, chissà. Galle SVF KHAL SVF Dorra. Ah, ma c'ha, hanno questo. E poi c'è scritto l'altro pulsante, cos'è? Stormy Sprenghi. Adesso mi chiami, ascolti, sì. Mia voce. Adesso già mi sentite bene, siamo, adesso sono già via l'Italia. Sì, io con questa radio ti ascolto, ti ascolto. Tiago 5, sì. Comunque c'è il pulsantino che lo fa più silenzioso, io stavo ascoltando silenzioso, c'è un pulsantino che diventa silenzioso alla radio, hai capito? Con quanti partecipi? 4 watt e quando muto arriva a 5. 4 watt sta insegnando, devo dire che è normale. Sì, sì, sì. E quelli che si usavano a volta, sì. Io mi dico che cosa potrei anche tenere, cosa dici? Ho già 22 canali, la posso anche tenere io questa. Sì, basta guardare se è omologata dietro. Non me lo ricordo, se i Zodiac solitamente erano omologati. Tutto scritto, non è scritto in italiano, non è scritto in italiano, però quando la prima di 90 più di 4 watt, che è stata 4 watt, cosa lo vuoi? Ma non vuol dire, sono anche 4 watt che non sono omologate. Ci sono radio che pure avendo 4 watt non sono omologate, invece l'omologazione è proprio ci deve essere l'etichetta dietro. Boh, questa è, non lo so dietro, c'è scritto qualcosa, tutta la numerazione della cosa. Non lo faccio. Ah, se c'è qualcuno che vuole entrare sul 5. Sul 5 o sul 6? Siamo sul 5 adesso. Gappa. Niente, sul 6, sì. Ah? Su che canale sei? 5, stiamo scherzando, io. No, perché potrebbe essere, potreste avere 5 e poi spostano 10 kHz e ti vanno su 6 e ti segnano sempre 5. Comunque ho già, al contrario, allora se io voglio andare al numero, no, già è giusto, sì, 5, sì, devo girare a destra e 4 a sinistra, ho detto, ma se ne vai dall'altra parte, no, già è giusto così questo. Pacca. Già va bene. Sì, sono apparati che io ne ho avuto anche a 40 canali, che apparecchi, ne ho avuto 3 o 4, li ho tutti dati per prendermi quelli di nuova concezione. Bianco c'ha da fare per attaccare il microfono, non so se è nato così, comunque pure penso che c'erano già, c'ha da fare l'aggancio per il microfono al Bianco. Le apre sulla strada, No, non è andato così, prima si attaccavano così, si attaccavano le viti le stesse dell'apparato, che porta microfono. Sento Luigi, ogni tanto si vedono cose belle sulla 131, mi stavo per fermare. Cosa c'era di bello? Una macchina la tipa le stava a bocca, era me. Minigoni. No, a pompando stava. Ah, vero. Lei. Pompando. Ma pompando che cosa le gomme? Una sigaretta che stava fumando. Così, dall'altro si vede a me. Ma ogni tanto sulla 131 si vedono ancora queste cose, bro. Una volta, non era la 131, in pieno giorno, ero con il camion e vedo questa macchina che andava a zigzagare. Questo mai ci deve essere qui. Arrivati al bivio e Brantamona, ha rallentato per farci passare la macchina. Come ha girato, ho visto, c'aveva la tipa sopra, facendole un lavoro. Ecco, mi di fronte alla meccanica a costruzioni, dove ci ferma sempre la polizia, ha messo la macchina di traverso, no? Ed era lì. Appaga. Vuol dire che era presa? Sì, molto, molto. Va bene, già va bene, quando è così va bene sempre. Infatti stavo per fermarmi, cazzo, a fare il giro, mi sa che faccio il giro, cazzo. Okay. Avanti, che va. Ma è meno male che mi hai sentito adesso, Adesso ti ho sentito, sì, così. Poco fa non ti ho sentito. E allora la cosa è molto grave. Ci ho buttato tutto, se non sono riuscito a superare un Santiago 5. Ora ho distratto, no, non sono, ti ho sentito, non so ti avrei fatto entrare. Già lo sai che non ti puoi manco muovere, te li conosco subito. Lo dici? Gaba gaba. Gaba gaba è positiva, cambia. Buonasera, buonasera. Caporale, buonasera a tutti, circolari. E con queste polemiche, sì, E che polemica? Non ti ho sentito, io se ti sento ti faccio entrare, mi delusare. Io non sto facendo nessuna polemica, ho detto ciao, a buttare tutto. Perché non sono riuscito a superare lo Santiago 5? Chi era Santiago 5? Ah, cosa? Ma tanto? No, hai detto che se il vulcano ti arrivò a Santiago 5. E io ho fatto i due tipi piccoli e tu non li hai sentiti. Allora da buttare via tutto. Non gli dici vulcano, no, Patatone arrivava a Santiago 5. Patatone che stava tornando da cosa, dai, io ho sentito la quadra della Sant'Angia. Ah, così, io avevo sentito stradando il controllo a Gigi Vulcano. No, Gigi Vulcano arrivava a Mali 9, 9, 5, così, con quell'apparato antico. Gabba, già va bene. Gabba. Gigino. Via, Gigino, vado a prendermi un caffè e mi avvicino un attimino lì al bar. Aspetta un attimino, attaccaci qualche altro microfono a quell'apparecchio, voglio sentirlo come lo usci. Ah, devo... c'ha lo spinotto, quello in casso, il suo... non è di così. C'ha lo spinotto, quello che entra in casso, è diverso dagli altri, capito? Mamma mia, che spinotti in casso, tanto soffetto. Quella 5 punte che si entra nei pochettini piccoli piccoli in filo. C'è un altro apparato, c'è un microfono che non avevo mai visto e io l'ho aperto per volere e invece non ne ha batteria, c'è una rotella al fianco e metto alla radio, tu già più giri questa rotella più metto alla radio. Ah, c'è un compressorino interno. Ma senza batteria, è come ti assomiglia a quello che... Allora, questo microfono in quella radio là è tipo quello che vado a Pierpaolo, solo che questo è un Zodia, che è preciso, l'altro aspetta un attimino e poi si assomiglia a questo batteria. Qualcuno che sta parlando sotto, avanti, chi vuole entrare? È una propagazione, è un palomar, quello là, il microfono, a quattro punte, però l'ha il contrario. Quello volevo provare su qualche altro apparato io, proprio a girare il... Palomar! Quello è. La vagava, il palomar, ma io ce lo conosco, questo fu il palomar. Era abbinato a questo paracchino, è un super Amtecker di The Arch Simposto, io in tedesco cosa la so leggere? Arch Simpson. Quello è, quello lì è l'apparato, l'altro, c'è anche le bande laterali, e quel microfono è insieme a quell'apparato lì. E quello è un apparecchio buono, Arch Simpson è... un apparecchio di anni fa, ma io ho avuto la prima concessione, l'ho avuto con quell'apparecchio lì. È lungo, mi è quanto più lungo di un flutto. Più tra quello nero mio, quelle, no, forse tu non l'hai visto, come si chiama, il Colt l'hai visto tu. No, negativo, comunque... io l'ho avuto quello lì e c'ha i manopoloni grossi eccetera eccetera, poi ce ne sono di tanti modelli, non è che ce ne sono solo, nel caso Simpson ce ne sono tanti modelli, due o tre modelli sono. Allora, sì, no, come non sono piccoli, va bene. però da parte sembra fatto in legno, guardando al coso, è fatto tipo legno, è cromato o qualcosa tipo legno, hai capito? È carta adesiva, sì, come l'ho avuto io. È una carta adesiva marroncina, confermo. Positivo, positivo, sembra quasi legno. L'ho avuto anch'io. Mi sto dicendo, la prima concessione l'ho fatta con quella, perché prima ci avevo il portante, la Fayette tre canali. Andava bene, ecco, con un'antenna lunga, quanto la 2000 euro era lunga, sembra che era lunga, grossa grossa, partiva proprio era fino a fine. Ma sparava con l'apparecchio, poi era tutto in ferro pieno. Ma no, questo è il ferro, proprio pesante e puro. Io l'ho guardato tutto il coperchio e una cosa spaventosa l'ho dentro. Io non so se è nato così, c'ha delle schede enormi, c'ha due finali, ma 19,69 dentro ho visto. E più è quadrato, non è a BLR. Ma no, se vedi cosa c'ha di quelle rotelle tutte messe dentro, so se c'è nato così, di quelle rotelle... per, diciamo per togliere radiofrequenze, è pieno di quelle rotelle, tutto quello che mi ha girato attorno. La gara. Pier Paolo. Esce un po' di fatti, questo qua io l'ho provato, è prima, esce un po' di fatti. Pier Paolo. Tu eri quello che stavo mettendo, che davi colpi importanti? No, no, assolutamente. Non ho capito poco fa come ce n'era uno che metteva in ignorato perché stava dando dei colpi importanti ma non mi sembrava la tua radio. Dei colpi importanti quando parlava quello lì che era fuori, ma l'ho ignorato, ho fatto finta di non sentirlo nemmeno perché non si meritava nulla. Non lo guardi a Fabrida, che non andava a Fabrida lo cubria. Ma che ora? C'era patatone. Oh, io sono arrivato alle 4:15, Io ho sentito a te a Gigi Vulcano, il patatone, No, ma io non so perché te lo so chiedo, perché tu mi hai detto, mi sembra solo che non mi hai sentito. Ho detto, a meno che fosse così, che fosse sentendo così a colpi importanti per farti sentire, però non capivo che dici perché non era la tua rara. E se non l'hai sentito, il patatone ci fa sentire. Buonasera. Filomi, Turrando. No, patatone, no, è il mio libero cosino, consecutivo. Infatti. No, pensavo ci sarebbe da quello. No, allora niente, non ti ho proprio sentito. Patatone, patatone, dove vai con tuo furgone? Beh, adesso li punti, adesso vado scendo a casa, devo fare una commissione a mio cognato che hanno buttato giù una panna, adesso la porto in una campagna che ho io a Maciaculetta, c'ho 3.000 metri di terra, la mettiamo lì, già marcisce piano piano. Magari. Sì, se non ha fuoco. E non brucia no quella adesso, se no non si secca un po'. Così è. Cappa. Vabbè, ogni tanto ti capita un viaggio, Oggi è andata bene, va. I soldi della lampada di tutta la settimana mi pago con questo viaggio di tu, là, oggi, va. Va bene, va. Da considerare che viaggi ne avrei fatto altri, Da oggi no, solo questo mi è uscito stamattina, solo questo di Tula. E già va bene, dai. Va benissimo. No, pensavo che ci mettevo di più di gasolio, Quindi ci avrò messo una quindicina di euro. E andava. E invece mi sono dato parte così. Allora, ci avrò 15 euro di gasolio, ne aveva chiesto 120, già va bene. E già va bene, sì. Va bene, sì. Consuma di meno con questi viaggi lunghi che ho di volte in città, consumi di più con questi viaggi in città che è strada lunga. Poi città quando li puoi chiedere, non li puoi chiedere più di tanto, allora c'è lì, puoi anche risarmi e chiedere qualcosa in più. Ma lo sai cos'è? Che da fricco fanno le consegne, no? E magari nel tragitto c'hanno 5-6 consegne e le prendono di meno, capito? Sì. Allora un po' ti devi adeguare, capito? Se no non ci rientrano, che le fanno fare. Così un sabato sera buono, così è uscito quasi a luna, mi è andata anche bene, dai. Ma fai tu, ti avvicini le persone oppure ti ridanno loro i viaggi? No, è un ragazzo che devi conoscere un po' il personale lì, capito? Devi rompianare con la gente che ci lavora. Se aspetti che ti chiamano loro dall'ufficio, lo danno a quelli, lo danno a Ciaro Paroli, capito? Sono convenzionati con la Ciaro Paroli. E caricano, per esempio, ti chiedono, però dopo 10 giorni, capito? Aspettano che c'è un carico nella zona, no? Dopo 10 giorni ti consegnerò la merce. Se tu sei tipo Pony Express, come la carica tra pure? Allora, come esce, da adesso è venuto questo lavoro, mi ti busco un viaggio, già va bene, e via, e sono andato. Fatto quella, ti hai fatto la giornata, e anche il tipo. Già va bene, se ne fuggi ogni giorno così di sabato, la luna mia, è troppo bella, tanto il sabato sera non c'è mai niente. La giornata, e via. No, non trovi quanti contatti poco, ma treni o cosa che ti puoi appoggiare per fare i viaggi. Io sono appoggiato molto alla Micheletti, ma stavo scherzeggiando un po' tutti, adesso il lavoro sta andando diminuendo, ma se tu vieni da Brico e ti metti in macchina, vedi certe scene che ti metti le mani in testa, macchine, una 600 si è attaccata una pedana di pavimento, cioè toccava i parafanghi alle ruote. Quindi non spendere i soldi, si sfasciano la macchina, non si... è meglio che dopo questa più si trova neanche la polizia, capito? Tu fai un pochettino sovraccarico e ti fanno il verbale, certo? Anche per un quintale. Pagato. Vabbè, facciamo girare avanti, Pierpa. Capo, adesso non sento più la portatone. Ma lui già ti sente, sono entrando da Danilo, entrando a casa. Cosa ha detto? Che sta entrando da Danilo, che da Danilo è entrando verso casa sua. Non mi sente, perché io lo sento bene, Ma ci arrivo lì, ho portato. Sì, che ci arrivo, io ti sento, lontano ma ti sento. Cosa ha detto? Ma ti sento, che fa? Io non lo sento più. Tu hai stanchezza, la vuoi? Gianni! Via! Ma brava, se non puoi stanchezza. E voi te ne dongo per qua, oggi ho fatto dalle 8:30 sino alle 1:30 senza fermarmi 2 secondi, manco per andare in bagno. Ehi, allora lì, noi abbiamo fatto 2 giornate assieme, dalle 7 fino alle 3:30. E oggi c'è... Oggi c'è, come si dice... Scusa un attimo, quindi c'è la preparativa perché c'è l'offerta da lunedì, c'è Gratte Vinci, e quindi devo preparare tutto il concorso, così. Cazzo, da voi il concorso non venire a mangiare pancarte, quindi cazzo devo essere, ci sono tutti gatti telefonati, pare pare, non so neanche qui, cazzo un casino. Guarda, no. Sono esausto anche, non ci avevo avuto un momento, e veramente, neanche per andare in bagno. Allora, vabbè. Io c'è l'offerta, prodotto piatti, questo, quell'altro, merce, insomma, pomodori, un po' di tutto. Tutto da lavoro in tutto, già. L'abbiamo smesso anche perché straordinariamente non ci abbiamo... Non abbiamo più manco un chilo di gas. Diciamo che mi sembra sempre una cosa, c'è da mangiare per l'offerta, quindi lo porto tutta la merce. Mi sembra che chiamo il patatore la prossima volta e me ne sto a casa. Tanto. Sabato davvero. Luigi. Mi ha attaccato. Bravo, Rino. Devi un altro 100 kg di gas, ma è tutto. Deve essere... La gente teme il freddo e cosa? Tante volte anche per le stufe lo usano, per le stufe a gas. famiglia. E poi le bombole, di solito a noi ci finiscono sempre di domenica. Gianni? Via. Sta uscendo male? Cosa? Sta uscendo male, non ti sento, piccino, pio pio. Io? Hola, hola, hola, hola. Ma vai, gira, vai, fai, fai. Mamma mia, già, non fa dire niente a te, subito sì, ola, ola, ola, già stai uscendo bene. Bubu, vengo l'endolo smitta a me, ciao Gianni. Oh, ciao Mario, mi hai sentito anche a te, dai, dai. E tu non vado a sentire, ogni volta mi dici che sono scendi male, rimani, ma mi hai fatto a sentire, già ero, esatto, là fuori, poi mi ha fatto un raggio. Ma tu sembri più a tipo pollo di sorprendenti, Bubu, ti hanno anche detto da sushi? Non l'ho fatto una volta, ma non mi hanno fregato la seconda. E ora ti ha cessato, avvero, Bubu, riprendi qualche... Ma tutte parate, ne so, cazzo, hai trovato i fuggi di tutti. Cazzo, l'hai chiamato qualche, non risponde. Ciao Vela, riprenditela tu e ciao anche Antonio, dai. Kappa. Il falchetto ha fatto la sua apparizione, è sparito. Dove sei? Esci dal nido. Non si è sentito niente. Sono uscito? No, io non ho sentito. Ho detto, adesso prendiamo un bastone e ne leviamo un colpo alle ali, così non vola più e rimane secco e petto lì vicino al microfono. E Aldo Ghetti è andato, si è spostato nel suo nido a fare il rifornimento. E che ora vai stasera, Gianni? Gianni? Ma non lo chiami doppio ru, lui non esce, vero doppio ru? Cazzo, è sparito anche Gianni. Eia. Hola. Ah, Falchetto è sparito, Gianni è sparito. Sembrava che stanno giocando a nascondino. Una volta siamo andati con Lattarino a chiedere quanto costava il baracchino che c'è a lui. Oh, costava tre volte di più di quello che l'ha pagato. Tu l'ha pagato 99 euro. Lì costava quasi 200 euro. L'altro dice, io non vi guadagno due, no, che non vi fai nulla, capito? E così che i prezzi sono raddoppiati, perché ci deve guadagnare lui e ci deve guadagnare anche il succio. Era solo in due, solo quello che c'era la grassa prima, il compresso e quello di diesel. Quello di diesel lo conosceva Moggia. Quanto era caro, faceva pagare praticamente le spese di spedizione su ogni pezzo, lui per dire ne arrivavano 20 di pezzi e pagava solo 80, e invece poi quando li prendeva ti faceva pagare, diceva ma c'erano anche le spese di spedizione, ma le spese di spedizione tu li paghi per tanti pezzi, non per uno solo, allora mi devi fare tutti i pezzi diviso, cioè uno diviso per tutti i pezzi, quindi mi devi dare, mi devi far pagare un tanto, non mi devi far pagare per il doppio. Gianni, nel commercio non funziona così. Nel commercio, allora, io non è che ci sono in mezzo, però lo vedo, perché dove sto lavorando lo vedo. Quando tu fai uno stocco di antenne, uno stocco di baracchini, come noi facciamo gli stucchi delle caldaie, facciamo gli stucchi della raccorderia, è il trasporto. È trasporto franco, poi non solo, in base al quantitativo che pigli, c'hanno anche lo sconto, perché a volte c'hanno il 20, a volte c'hanno il 30, a volte c'hanno anche il 40% di sconto, è trasporto, è tutto trasporto franco, perché loro non è che ne ordinano una per te. Loro ne ordinano 100 antenne di una maniera, 100 antenne dell'altra, e le mettono lì, poi aspettano che quello là glieli compra e poi ti fanno pagare pure il trasporto, ma non ti innalzi. È perché purtroppo qui a Sassari non è che ci sia molto da scegliere, se no sarebbero morti già da prima di oggi, già non ci sta andando più nessuno, perché con quello che si fanno pagare uno giustamente fa una telefonata pure e gli arriva, vabbè, però a me me ne stai mandando una solo, non è che me ne stai mandando 21, e lì è giusto che te lo fanno pagare il trasporto, però per un negoziante non è che funziona così. Mario, io che sono cliente, forse il primo cliente a Sassari di Tecnocomunicazioni, dopo che ho fatto un bel po' di ordini la scorsa volta mi ha detto non ti faccio pagare le spese di spedizione, non ti faccio pagare le spese di spedizione, e me l'ha mandato a prezzo solo dell'apparato e basta, le spese non me le ha tolte. E ne hai ordinato un pezzo. Figurati se tutti dovresti aprire un negozio e le dici mandami 10 di queste, 10 di quelle, 10 di quell'altro. Loro fanno tutto un pacco e spediscono, capito? E non solo di pagare quel prezzo lì, c'hai anche lo sconto. Arrivo, lei dice offendere cani, musi, poi dice va bene quello, ma è meglio lasciarli morire, almeno abbassano la serranda e se ne vanno a quel paese. Infatti, come è successo a lui? Abbassami quel volume! Come è successo a lui, che ha chiuso subito, non ha durato più di tanto. Vabbè che io questo mese a Tecnocomunicazione ho durato più di 600 euro. Ma Gianni, ti hai comprato della roba? Ma tu adesso immaginati un negozio, ecco, gli arriva la roba, oltre che gli arriva la roba a Porto Franco, c'hanno anche o i 30 o i 60 giorni per pagare, oltretutto, no? Oltre gli sconti, hanno 60 giorni per pagare, così che tu vai a fare il terremoto con il cliente. Allora è giusto che anziché dire che sei un buon negoziante, ti dicono che sei un terremoto e che sei un ladrone. Io dico guadagnaci dal pezzo, ma non ci guadagnare anche dalle spese di spedizione, perché se no sei proprio canimoso. Infatti si è visto che fino a fatto ha dovuto chiudere, per fortuna si è rimesso un po' in sesto con quello di Grassi, perché avevano dei buoni rapporti magari, perché mi comprava la roba da Grassi e poi se la rivendeva il doppio. Sai cosa faceva? Il manco spese di spedizione pagava, perché la prendeva da Grassi all'ingrosso e se la vendeva il doppio, perché a me Grassi me l'ha detto. Perché ho detto se la compra la diesel e dice perché fa la diesel, quindi in quattro diesel l'ha comprata noi la roba. Cavra cave. Edino. Ehi, è così, già c'ha ragione. Se non so il cane morti cosa c'è il cazzo proprio terra terra, eh. Vabbè, mi hanno raccontato le... Sono il contente, cioè sono i piedi queste cose, ecco costi meno, perché se tu per esempio, lo sai che non è, cioè, ci puoi andare proprio al tecnocomunicativo su un negozio e le cose le paghi come sono lì anche su internet, paghi così, e sono tutte di meno, eh. Per esempio qua quando ti dava quell'animale 200, cantiga 300, poi pare che è arrivato pure a 220 o la 48. No, ah, il giro trovavo 160 euro. Non me lo ricordo. Cioè così, è arrivato a 220 euro. Ah, diciamo, un coso, è un po' blu, non lo so come mattino. Cioè, guarda che 220 euro, se questo quello che non già avessero 160 euro. E cioè, vuol dire che ci stanno guadagnando, non è che ci stanno guadagnando. Cazzo, io vendendo per 220 euro e non ti guadagni niente, lui e i bambini. E allora, quando ancora non erano mettate le spese di spedizione, con mi pare che veniva 160, con 169 euro c'è cioè l'apparecchio finito a casa. Le spese di spedizione, sì, te lo dico io, già 170 euro con le spese di spedizione. E adesso perché ha aumentato per un parco, ma allora quando lui ce l'aveva 220 io l'ho chiesto e veniva così, perché poi io ho preso il DSX lo stesso, lui ce l'aveva, costava molto di più e l'ho pagato molto molto meno. Quindi non fate manca domanda, poi ti dice che ti ordina la roba e non te ne usi, la passi 3 volte, 30 volte e non ti è arrivata. Non è serio come lavora, non mi piace. E quando lui invece mi aveva detto a me 200, no, il tecnocomunicazioni era 171 che ho preso la spesa di spedizione. Loro si fanno terreno bruciato, anche se lui si è messa a voce la volta che gli ho detto, tanto su internet e cosa? Davanti ai clienti li abbiamo detto, in realtà io su internet gli ho detto costa più di 50 euro in meno. Ma su internet cosa pigliano da internet allora? Non ti fanno manco la garanzia di te, quello lì ci dico, a me mi spediscono lo scontrino ed è una ninfassidia quello che mi vende la roba, perché quando ho avuto problemi mi ha sempre appoggiata. Quindi non ci sono nessun, non c'è nessun problema, diceva spedisci ma non sei difettoso e ci penso io poi a mandarti per la nuova. Cappa, confermo, a me mi ha sempre mandato lo scontrino legato dentro la scatola e sempre tutto a posto, non è così, no, lo scontrino te lo manda, e come? Io, perché te lo mando anche per il lato della garanzia, ce l'ho di tutti quanti, ce l'ho io lo scontrino, di tutto quello che ho preso da Tecnocomunicazioni, sempre, sempre me l'ha mandato sia del Cox, dell'alimentatore, sia del Maxon, del ho anche del microfono che mi sono fatto arrivare ultimamente del coccine, anche di quello mi ha mandato sempre lo scontrino. Sì, sì, di tutto ti manda lo scontrino. La garanzia ce l'ha per 2 anni. Senza nessun problema, non potrei su di lui, ma già va bene. Va bene comprare lì perché costa tutto molto molto meno. Purtroppo lo sai cosa è che ci abbiamo sempre di mezzo a questo viaggio, però anche compreso il viaggio non è così, perché adesso vedo la differenza, no? Lui questi microfoni non ce li ha, ma sono uguali, infatti è il modello. Aspetta, questo è il 4190, no? Che è il Proxel. Perché è lo stesso velismo come quello della cassa diversa e basta, come il GTE che vendeva lui. E quanto lo stava vendendo lui con il GTE? Cosa? Torino? Mi pare vendivo. No, il GTE, per esempio, ha accettato un paio di volte 12 euro. Con altri ha fatto il cane morto anche 15 euro. Anche gli stessi Quizal e mi hanno dato sempre 10 euro, però non li voglio a 15 euro secondo lo capo suo, no? Però vedi, sono certo approfittato perché ho detto, cioè io glielo dico, guarda, là, se per quello mi pago altri 11 euro di spedizione, me ne faccio spedire 2 come li ho presi da lui, me ne pago la spedizione, ma no, le birichine, fa qui anche 15 spese sono 30, fa 30 euro e 30 euro li piglio direttamente da chi là. E io non guardo la sua inconvenienza, non ve ne biglietti mancano. Avanti Mario. Mario si è sentato, deve essere che sta facendo qualcosa. Così non ce n'è più gente scema. La gente guarda dove gli conviene e basta, non è che compra primo che capita. Va, manca, su finisci devi ricomparare come ti capitava. Adesso uno ci pensa anche quando compra la roba perché non so più tempi di buttare su. Costa 98 euro o 88, adesso non me lo ricordo, però se tu guardi nel computer vedi anche il prezzo, non c'è problema, metti pure che paghi 30 euro di spedizione e arrivi a 120 euro, ma cosa la devi regalare da 60 euro, non ha giù Cristo, ma mangiarsi niente per recuperare il carri, mi porto una mangiata di carri. Infatti, hanno questa abitudine, siccome non c'è concorrenza, quindi ne approfittano, capito? Ci sono due negozi di gruppo, uno che è un po' così, l'altro un po' più attrezzato, ma siamo sempre lì. Prima per me aveva dei microfoni, quello come si chiama? Penso che pare una carta via quando entri, ma non mi viene. C'è Grassi, Fusaro e pure altro come si chiama, Melchiori. Sì, ma siccome Melchiori, vabbè, lavora anche su molte cose, come quell'altro di via 4 novembre. Però uno che lavora sui baracchini, il baracchino lo sai che non ti dà da mangiare, cioè se non te lo compri oggi, te lo compri domani e per dire a spicchi. Quindi io ho messo un'antenna così, mi sto arrangiando, va a Napoli, intanto tu mi senti, quello mi senti e tutti mi sentono, perché io devo avere la fretta di andare lì a regalare il denaro, a me non me ne regalano, io me ne devo zappare, così che non manchi un regalo, e allora a questo punto, visto che tu non sei in armonia con gli altri, allora vuol dire che anche io aspetterò qualche giorno, vado a Napoli, però me la piglio dove mi conviene. Ma poi non sono tanti giorni, sono 3 giorni, qui non è che si può aspettare 3 giorni. La ordini e poi io ho ordinato un alimentatore, quello è da 55 ampere, però ne dà 50 di picco. È bellissimo, molto molto bello come alimentatore. E cappa di positivo, no, io ne ho 2 della Inte, che uno da 25 ampere, mi sembra che sia, e l'altro è da 15, però vanno tutti e due bene e stanno funzionando. Poi ne ho un altro da 5 ampere, poi ce n'è un altro che quello lì c'ha 18 ampere, bisogna che gli metto una resistenza per ridurre la potenza, che quando arriva a 14 ampere, a 13,8 va bene lo stesso. È così che mi diviso per gli apparati piccolini. E niente, e va bene così, cioè sono da buttare via, non ce n'è. Via Rubino, via. Ora mi sta fregando il tempo e devo andare a lavorare. Dai, vado a prepararmi, poi magari ci sentiamo dalla macchina per riprendi tu con Mario, vi saluto sicuramente per il momento, poi ci riprendo la macchina. Vabbè, ciao, buon lavoro, ce ne ascoltiamo dopo, se ci sono, perché anche adesso vado a fare qualche commissione, là. Mi sono riposato una mezz'oretta, adesso devo andare anch'io a fare qualche stesuccia, qualche cosa, vai, ce ne ascoltiamo dopo. Ciao anche a te, Mario, ce ne sentiamo dopo, vai. Vado a fare qualche commissioncina e poi ce la riascoltiamo dopo, vai. D'accordo, buon lavoro per Gianni e niente, casomai ci sentiamo dalla macchina e buone commissioni a te Pierpa, ce la risentiamo alle prossime, là. Ciao ciao ciao ciao a tutti, ciao.